9 in punto, la versione di Oscar. Oh, oh. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno ed eccoci in questo venerdì 16 marzo con una puntata che sarà dedicata, come vi ho detto, alla riforma del mercato del lavoro, alle prime mosse, anzi alle ultime a dire la verità, le mosse le ha prese qualche settimana fa, l'avviamento di questa trattativa è stato un po' anomalo perché il ministro Elsa Fornero ha da par suo, ci ha abituato, devo dire, alle sorprese, ci ha impostato questa trattativa secondo una modalità un po' diversa che ha lasciato all'inizio le parti sociali un po' perplesse perché non si è presentata con un documento che ha consegnato la loro osservazione, o meglio all'inizio ha letto un lungo documento di 8 pagine che ha lasciato tutti senza parole perché poi lei non l'ha consegnato e ha dato un lasso di tempo entro il quale ha detto: fatemi sapere come la pensate su flessibilità all'ingresso, in uscita, sugli ammortizzatori sociali, e guardate che però si chiude entro una data, e questa data è il 23 della settimana prossima, e pare proprio che Elsa Fornero sia fedele a questo schema. Ci sono stati più incontri di approfondimento tecnici, sembrava a un certo punto la cosa totalmente per aria, poi è sembrata che fosse il sindacato CGL e i PD i più perplessi. 2 giorni fa, al contrario, grande schiarita, è evidente che il ministro si dà da fare con la sinistra, CGL e Bersani dicono stiamo andando quasi a una chiusura, si chiariscono molte cose, e adesso invece vedremo le cose come stanno, perché all'ultimo momento, per così dire, è lì che si scoprono davvero le carte, e in questo momento le imprese hanno puntato un po' i piedi e si tratterà di capire come e perché. Da questo punto di vista ci sono problemi all'ultimo secondo, quindi tenteremo di capire innanzitutto a che punto sta il negoziato, se si chiude la settimana prossima, e con punti di vista diversi di spiegarvi le cose come stanno. Intanto 2 annunci. Il primo è relativo a un importante appuntamento che c'è domani, perché domani, sabato 17 marzo, è la terza giornata europea della narcolessia, quindi perdonatemi ma ogni tanto sapete che io per il volontariato ho un'attenzione particolare. Anche quest'anno viene celebrata in Italia la terza giornata della narcolessia con un convegno che è aperto al pubblico e che si realizza grazie alla collaborazione tra l'Università di Bologna e l'Associazione Italiana Narcolettici. Che cos'è la narcolessia? Ve lo ricordo, è una malattia neurologica e i pazienti maggiormente colpiti sono bambini e adolescenti, è caratterizzata da una grave sonnolenza diurna, da improvvisi cedimenti muscolari provocati da forti emozioni, la cataplessia, poi da allucinazione, paralisi dell'addormentato al risveglio e da una frammentazione del sonno notturno. Quindi la qualità della vita è sempre più duramente compromessa, il fatto che non si riesce ad avere più rendimento scolastico, nessun lavoro, le relazioni sociali e familiari saltano per aria. Ed è così dovuta questa malattia? È dovuta alla perdita di cellule nervose, i neuroni che sono localizzate nell'ipotalamo, che è una parte del cervello profondo, e questi neuroni presiedono proprio alla funzione di controllo del ritmo sonno-veglia, e non solo di quella, di la verità, ma anche di come mangiamo, di quanto mangiamo, della temperatura, dei comportamenti istintivi, cioè della parte che si occupa, per così dire, è governata dal sistema limbico del nostro cervello. Quindi la causa della narcolessia purtroppo non c'è ancora nota, c'è molta ricerca che è in corso, perché pare che l'origine potrebbe essere autoimmune, e quindi ci dovrebbe essere, se fosse così, una predisposizione genetica. Però uno dei maggiori problemi è appunto non solo il fatto che noi non abbiamo ancora una cura, ma che ci accorgiamo di questa malattia molto tardi, ce ne accorgiamo quando il ritardo di diagnosi è in media dai 7 ai 10 anni, scopriamo rispetto ai primi sintomi, e a quel punto purtroppo non c'è niente da fare. Allora, questa terza giornata della narcolessia europea che si tiene domani, sabato 17 marzo, c'è un convegno e questo convegno è diretto dal dottor Giuseppe Piazzi, che è sugli ultimi sviluppi. Io vi dico solo che sul sito www.narcolessia.it che è nato 10 anni fa grazie all'Associazione Italiana Narcolettici, trovate non solo tutto quello che può servire per farvi capire ancora la terza giornata europea che c'è domani, ma soprattutto trovate il modo per capire come aiutare i pazienti affetti da narcolessia non ancora diagnosticata, sono circa 25.000 in Italia, e come aiutare i pazienti già diagnosticati a ottenere il meglio per l'assistenza propria delle proprie famiglie. E tra l'altro sul sito trovate anche come fare un primo test. Io concludo questo mio invito, e perdonate se lo faccio all'inizio di trasmissione, però sono delle buone cause, conosco chi se ne occupa, associatevi se lo ritenete opportuno, ma troverete lì l'indicazione del conto corrente postale, lo voglio dire comunque, che è 22 04 15 03, con codice IBAN IT18 I076 01 02 80 000 000 22 04 1503, che è intestato appunto all'Associazione Italiana Narcolettici e Personne. Costa poco diventare socio ordinario, sono 20 euro, socio sostenitore sono 50 euro, e occhio dunque alla terza giornata della narcolessia che c'è domani. Grazie a chi vorrà dare una mano, perché vi posso garantire, conoscendo alcune storie, che avere poi un figlio o un familiare che si trova in questa spirale è una delle cose più terribili che possano avvenire. Un ultimo flash invece che riguarda le cronache dell'eurodebito, per così dire. Come avete sentito anche dai colleghi generali, la Merkel sostiene Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, per diventare presidente dell'Eurogruppo. Questa Financial Times, dove ci sono, trovate tutti gli approfondimenti. Invece vi consiglio di leggere comunque l'articolo di Lorenzo Binismaghi sul Financial Times in merito a come il caso greco non sia da considerare un caso che non può ripetersi nell'euroarea e non può estendersi con ulteriori cadute nell'effetto domino, nell'effetto a catena. Poi delle critiche di Heinz Widmann, il presidente della Bundesbank, alle aste di liquidità della BCE di Mario Draghi. Oggi sul Financial Times Deutschland si aggiungono a quelle del presidente della Bundesbank quelli di Erkki Liikanen, e quindi evidentemente nelle istituzioni europee non è la posizione tedesca isolata, perché il governatore della banca centrale finlandese condivide in toto gli argomenti del presidente della Bundesbank. E infine due osservazioni sull'andamento della campagna presidenziale francese. Ci stiamo avvicinando al primo turno, che è il 22 di aprile. L'Esecco ieri ha attaccato duramente Hollande, il candidato socialista, che è ancora in vantaggio, ma con un vantaggio che si sta riducendo nei sondaggi su Sarkozy, perché sempre più Hollande viene pizzicato nel fare proposte economiche e finanziarie che non hanno copertura economica. Tanto è vero che l'Esecco diceva ieri che oramai la sovrastima delle misure che annuncia Hollande è del 15%, cioè non di poco. Sarkozy ieri, e questo invece sulle Figaro c'erano trovate ottimi rapporti, è in corso in un piccolo problema, perché ha dato il coglione al giornalista, poi si è rigirato, ha cercato di scusarsi, insomma un pasticcio, per così dire. Allora andiamo alla fotografia di come stanno le cose al tavolo della riforma del mercato del lavoro. Abbiamo con noi Giorgio Guerrini, che è presidente di Confartigianato. Buongiorno Guerrini. Buongiorno a tutti voi. Maurizio Del Conte, che è docente di diritto privato e diritto del lavoro alla Bocconi, lo abbiamo spesso usato come faro e punto di riferimento e guida in vicende del mercato del lavoro. Grazie, buongiorno professor Del Conte. Buongiorno a voi. Allora Guerrini, io comincio da voi, perché uno dei problemi più rilevanti che sono stati sottolineati come un freno importante al governo in questi giorni, facendo capire che rispetto a quello che era noto dei documenti presentati dal ministro Elsa Fornero, se le cose restano così per una parte del mondo delle imprese, non è accettabile questa impostazione, riguarda esattamente il mondo di Rete Imprese Italia. può spiegare perché? Perché la proposta del ministro Fornero, per essere chiari, nella indicazione delle nuove strumenti per il sostegno al reddito rispetto a quelli attuali, ricordo a tutti che noi con la cassa in deroga abbiamo esteso la copertura e la durata di cassa ordinaria e cassa straordinaria a soggetti che prima non erano coperti. Il problema è che nel passaggio a questo nuovo regime, che poi ci spiegherà meglio Maurizio Del Conte, il problema è che per le imprese il costo del lavoro sale, e in particolare sulle spalle di quelle di Rete Impresa Italia. È così, non è così, Guerrini? Che tipo di aggravi possono materializzarsi per le vostre imprese, e che cosa il governo, l'incontro di ieri, vi ha detto? Perché voi ieri a un certo punto avete detto: se va avanti così, noi iniziamo a prendere anche in considerazione l'idea di dislettare i contratti. Guerrini. Certo. Lei, dottor Giannino, ha rappresentato in maniera molto sintetica quello che è successo. Noi non possiamo accettare che in un momento economico come quello che sta vivendo il nostro paese, quindi di recessione, si vada ad incrementare di oltre 2 punti il costo del lavoro per le piccole e medie imprese. Questo è il contrario di quello che si deve fare. Noi abbiamo vissuto nel periodo della lira il tempo della svalutazione competitiva, no? Il nostro paese, quando non ce la faceva, svalutava e quindi diminuiva il costo del lavoro, diminuiva il costo delle proprie merci e riprendeva ad esportare. Ecco, mi sembra che noi facciamo il contrario, aumentiamo le tasse sulle imprese, siamo arrivati in questi ultimi mesi, lo ha sottolineato molte volte, a oltre il 45% nominale, che vuol dire, considerando il nero e l'evasione, a oltre il 55% per le imprese. Poi sono state aumentate dal governo Monti le aliquote previdenziali per gli autonomi e per le imprese. Le tariffe dei servizi pubblici sono ben oltre l'inflazione, il costo dell'energia e dei carburanti, l'IMU, che tra pochi mesi interesserà tutti i cittadini, ma soprattutto le imprese, perché è una imposta che graverà in maniera pesantissima sugli immobili produttivi. Ecco, noi riteniamo che tutto questo sia molto pesante, troppo pesante, e non può permettere al nostro paese di agganciare la ripresa. Noi abbiamo già 2 trimestri alle spalle di decrescita, il prossimo probabilmente sarà su questa linea. Ecco, noi crediamo che invece si debbano fare le cose che attendiamo, ma che vengono rimandate a dopo, e sono una spending review efficace sulla pubblica amministrazione, perché nelle imprese, quando le cose non vanno bene, la prima cosa che si fa, si contraggono i costi, non si aumentano i prezzi delle merci che si vendono. Poi noi attendiamo ancora uno sfoltimento della burocrazia, dei costi della politica, attendiamo ancora l'attivazione e l'entrata in opera della direttiva europea sui tempi di pagamento della pubblica amministrazione. Attendiamo ancora il secondo tempo delle liberalizzazioni che il governo ha promesso, quello sui trasporti, l'energia, i servizi pubblici locali, le banche, le assicurazioni. Ecco, io credo che il sistema delle piccole imprese, che in questi anni di crisi ha sostenuto il paese, perché questa crisi, dottor Giannino, lei lo sa bene, è stata scaricata totalmente sulle spalle delle famiglie e delle imprese. E questo sistema di imprese, che è largamente maggioritario, le imprese artigiane, quelle commerciali e dei servizi, sono la prima impresa del paese, perché sono milioni di imprese, danno lavoro a decine di milioni di persone e sono trattate spesso in maniera residuale. In questo paese, purtroppo, un'informazione distorta dà molto valore, ad esempio, per l'amor di Dio, tutto il rispetto alla FIOM e ai lavoratori del settore metalmeccanico, che sono poche centinaia di migliaia, ma non si accorge invece di milioni di imprese, di milioni di lavoratori, che avrebbero da questa riforma un aggravio di costi che, crediamo, per le difficoltà che stiamo vivendo non da ora, può rischiare di comprometterne la vita. Allora io ricordo a tutti coloro che sono in ascolto, ed è questa la ragione per la quale Confindustria o non Confindustria sia l'editore di questa radio, io invito spessissimo a questi microfoni i rappresentanti di Rete Impresa Italia, è che il totale dei dipendenti delle imprese associate a Rete Impresa Italia, cioè quelle del commercio, dell'artigianato eccetera eccetera, sono oltre 7 milioni di italiani, quindi stiamo parlando di una componente fondamentale, un terzo, poco meno di un terzo del totale del lavoro ufficiale dipendente nel nostro paese. Quindi è per questo che io ho cominciato da loro. La quantificazione che Rete Impresa Italia fa degli aggravi che il nuovo sistema di sostegno al reddito, il cosiddetto ASPI, no? Questa indennità di disoccupazione comporterebbe per le imprese in cui lavorano questi 7 milioni di italiani è di circa 1.2 miliardi di euro, e si aggiunge in una situazione nella quale il peso fiscale contributivo dello Stato è stato crescentemente duro e tosto in questi anni, oltre a tutte le difficoltà che ci sono per chi lavora sulla domanda interna, quando si sa che la domanda interna è, quando va bene, flat, cioè piatta, ma purtroppo è negativa rispetto al reddito disponibile degli italiani, che è molto eroso dalle pretese dello Stato. Questo problema è un problema, secondo me, tra i più fondamentali da risolvere se governo, le altre associazioni datoriali, i sindacati pensano di chiudere davvero la trattativa la prossima settimana. Si è letto, Venturi, che voi avevate indicato anche al governo come altrimenti fare, visto che ci sono fondi in positivo che vengono dalle imprese versati per esempio per INAIL e malattia, due gestioni che a questo punto potevano essere coinvolte e utilizzate, ma le risposte che vi sono venute fino a questo momento dal governo vi fanno pensare che ci sarà questo passo avanti oppure no? Ma noi abbiamo indicato, come sempre facciamo, le soluzioni, perché noi non è che abbiamo contestato l'allargamento delle tutele, noi abbiamo detto però, in una situazione di questo genere non ci può essere chi guadagna e chi perde, e a perdere sono senz'altro le imprese sotto la soglia dei 15 dipendenti. Noi abbiamo delle partite attive da decenni che gridano vendetta, ne sottolineo due: l'INAIL, va bene, che ha un attivo da 10 anni puntuale ogni anno per la gestione artigiana e la gestione commerciante di 2 miliardi di euro ogni anno, moltiplichi per 10 sono 20 miliardi di euro. L'indennità di malattia ha un attivo costante annuale per questi due settori di 1 miliardo e 8 all'anno. Allora le risorse ci sono dove trovarle. Al piccolo imprenditore in genere non è che interessa molto qual è l'aliquota che sale, se poi ce n'è un'altra che scende. Come diceva Totò, è la somma che fa il totale. Quindi noi siamo disposti ad avere un costo maggiore sulle tutele sindacali, ma avere uno sgravio di tasse, perché poi non sono altro che tasse, che le imprese artigiane, le imprese commerciali pagano in maniera molto salata e di cui non usufruiscono i servizi. Quindi noi abbiamo trovato la soluzione. Il governo ci ha risposto, devo dire, in maniera un po' più morbida rispetto al passato, e questo ci fa sperare che ci sia uno spiraglio, anche perché l'incontro politico di questa notte credo che sia servito molto a far capire al governo che una situazione come questa, che riguarda milioni di imprese, milioni di lavoratori, politicamente credo che sia difficilmente sostenibile, perché noi un secondo dopo che questa cosa va avanti oppure non si realizza rispetto alla proposta che abbiamo fatto, disdettiamo milioni di contratti di lavoro che sono stati firmati recentemente e che hanno messo dei bei soldoni su questi contratti le imprese e i lavoratori, perché si sono fatti un sistema di welfare diretto attraverso la bilateralità, dove un pezzo di sanità attraverso i fondi sanitari, un pezzo di previdenza ce lo gestiamo in proprio, ma noi non possiamo mettere soldi su un tipo di contratto e poi il governo ce ne chiede altri su un altro tipo di contratto. Se quella che passa è la filosofia Fornero, che evidentemente non conosce molto di quello che è successo in questi 20 anni di trattative sindacali, noi disdettiamo immediatamente i contratti del lavoro e credo che dal punto di vista sindacale ma anche politico sarà un bel problema, perché mandiamo al macero 20 anni di relazioni sindacali positive e di welfare attivo, il che vuol dire sussidiarietà. Io credo che questa sia la paroletta magica per il futuro, se questo paese si vuol salvare, perché non esiste un rapporto diretto e stretto tra lo Stato e la persona e il cittadino. Tra lo Stato e il cittadino ci sono tante cose, ci sono le famiglie, ci sono le rappresentanze sindacali, le rappresentanze di imprese, non si possono bypassare. Allora io credo che il nostro responsabile atteggiamento sia quello di far capire al governo che in una situazione difficile noi abbiamo accettato le difficoltà, abbiamo accettato di pagare pochi mesi fa 4 punti in più di aliquote di previdenza, va bene? Ma una cosa di questo genere è inaccettabile, perché si prende a chi ha di più, cioè si prende a molti che hanno di meno per dare ai pochi che hanno di più. Allora io ringrazio Guerrini e spero appunto che sia ritenuto opportuno, insomma, il fatto che io poi comincio esattamente con il punto che probabilmente non è quello che interessa di più a Confindustria, però interessa le imprese di 7 milioni di italiani ed è una questione secondo me fondatissima, perché bisogna mettere una misura al fatto che lo Stato chiede alle piccole aziende di autonomi, commercianti eccetera, sempre più soldi. Qui c'è un problema relativo all'estensione della copertura al sussidio per chi perde l'impiego in questo settore. La questione però è quella di non trovare soluzioni nell'ambito di formule che aggravano ulteriormente l'onere sulle imprese. Significa semplicemente che si fanno le riforme per dire chiudete, e questo non credo che sia la finalità di una riforma del mercato del lavoro. C'è una questione dal punto di vista dell'impresa almeno altrettanto fondamentale, che ieri ha spinto Confindustria ad avvisare il Presidente del Consiglio Monti, il Ministro Fornero e il Ministro Grilli, che ci vuole una grande chiarezza, perché altrimenti anche Confindustria non firma. La grande chiarezza derivava dal fatto che giravano testi diversi, e non è proprio una bella cosa, consegnati tra sindacato e associazioni imprenditoriali, su il punto fondamentale che sta a cuore, come questo sta a cuore a Rete Impresa Italia, il punto fondamentale che sta a cuore a Confindustria è quello che ci deve essere una simmetria tra la più flessibilità in uscita rispetto all'articolo 18 attuale, rispetto all'appesantimento della flessibilità in entrata, che è invece il punto di fondo della proposta Fornero. È un punto di fondo per tentare di diminuire il ricorso a contratti atipici in maniera impropria, perché dissi affardellano una quantità di nuovi adempimenti amministrativi molto forte per gli interinali che hanno orari particolari, c'è bisogno di un'autorizzazione preventiva scritta sugli orari, con comunicazioni da mandare, cose di questo genere qua. Quindi c'è un forte appesantimento dei vincoli volto a tentare di impedire l'utilizzo di formule di lavoro atipico in maniera impropria da parte delle imprese, e l'aggravamento da questo punto di vista anche per l'apprendistato. Per esempio l'apprendistato, sapete, riformato da Sacconi, era un apprendistato che aveva grandissimi vantaggi oramai di abbattimento di costo per le imprese, ma lo si finalizza adesso e lo si vincola alla quantità di apprendisti già assunti in precedenza, o al fatto che il più del premio te lo incassi come impresa se poi regolarizzerai l'apprendista assumendolo a tempo indeterminato. Insomma, è evidente che nell'ingresso sul mercato del lavoro la Fornero lavora con un'impostazione che dobbiamo fare diventare più rigidi questi altri contratti e queste altre modalità, perché altrimenti noi non usciamo dal dualismo che ha addensato sulle spalle di lavoratori giovani e donne la differenza delle tutele. Però se in cambio a questo non c'è uno scioglimento della flessibilità in uscita rispetto all'articolo 18, e soprattutto se i testi sono diversi, un po' furbescamente, come c'è il risultato che avvenisse nei giorni scorsi, noi non firmiamo. Eccoci tornati qui, molti ascoltatori mandano sms che dicono: ma Giannino si è drogato questa mattina, Giannino è ubriaco, ma se tutti i giornali ci dicono che c'è già l'accordo, ma di quali impuntature stai parlando? Naturalmente alcuni aggiungono servo, di qua di là, ragazzi, se mi permetto di dirvi che ieri, oltre alla minaccia di disdetta dei contratti di Rete Impresa Italia, che trovate su tutti i giornali, anche Confindustria ha avvisato formalmente, sia pur riservatamente, i vertici del governo che o si chiariva il giallo dei testi diversi che giravano e o è chiarissimo il punto della simmetria tra appesantimenti, che ci sono e sono molto forti, alle flessibilità in entrata sul mercato del lavoro, e invece aumento della flessibilità in uscita, anche con Fedusa non firma, ritengo come giornalista di darvi una notizia, per così dire. Non è che se tutti i giornali scrivono solo per indorare la pillola e viva viva il governo che c'è già l'accordo, vuol dire che l'accordo c'è già davvero. L'accordo bisogna perfezionarlo. Martedì c'è stato un vertice con il segretario dei partiti ieri sera, che ovviamente ha di nuovo messo i partiti che borbottavano, che protestavano, che dicevano che i tecnici se ne devono andare, nella condizione invece di dovere fare il loro dovere di sostenerlo. Però ci sono punti aperti sul mercato del lavoro e sulla riforma ancora molto molto molto importanti, perché ripeto, se andate a leggervi la batteria di appesantimenti dell'utilizzo del lavoro a tempo determinato, dell'apprendistato, del part time, del lavoro intermittente, del lavoro in collaborazione, per le partite IVA, per l'associazione in partecipazione, per il lavoro accessorio, capite che la filosofia di questo provvedimento è quello di dire: all'ingresso facciamo tutto il possibile perché sia chiaro che la forma prioritaria deve essere quella del tempo indeterminato per tutti. E siccome io non credo che esista un paese al mondo che può davvero funzionare così, tantomeno l'Italia, questo tipo di approccio che serve a superare il dualismo del mercato del lavoro è interessante per Confindustria solo se, ripeto, sull'articolo 18, la flessibilità in uscita, ci si chiarisce bene. E chiarirsi bene significa che per i licenziamenti economici si deve andare all'indennizzo, siano essi collettivi o individuali; per quelli disciplinari anche in questo caso ci deve essere una priorità per l'indennizzo, lì il giudice può decidere, ma ci deve essere una priorità per l'indennizzo, e il giudice resta invece pieno titolare, come ovvio e come giusto, del reintegro solo per i discriminatori, come ovvio. Chiedo al professor Maurizio Del Conte, da quello che ha capito dei testi e da quello che si capisce con i suoi contatti riservati per il mestiere che fa e per il fatto di essere uno dei professionisti più apprezzati in questo settore, questo equilibrio e questa simmetria c'è nelle proposte del governo, a suo giudizio, tra minor flessibilità in entrata e più flessibilità in uscita rispetto a come oggi si disciplina o si propone di disciplinare l'articolo 18 vecchio dello Statuto dei lavoratori, oppure no, secondo lei? Ma da quello che capisco io e da quello che sento, mi pare che il vero problema è che da parte del governo non ci sia un piano molto preciso, cioè si proceda per approssimazioni senza avere un'idea sistematica e complessiva del meccanismo entrata-uscita, e anche, io aggiungo, dovrebbe essere centrale la flessibilità organizzativa, perché poi noi ci stiamo a esaurire sulla flessibilità in ingresso e in uscita, ma se abbiamo un paese ingessato e un sistema di imprese ingessato sul livello del contratto collettivo nazionale e non si fa finalmente una svolta seria sulla contrattazione decentrata, lasciando alla contrattazione di prossimità una organizzazione davvero flessibile e davvero premiale, è difficile che si possano ottenere quegli risultati di incremento di produttività che mi pare essere al centro degli obiettivi anche del governo. Detto questo, mi pare di poter dire che il grosso problema che c'è in questo momento, in queste ore, è se davvero il licenziamento economico sia o no sottratto al controllo giudiziale, perché vede, il vero problema non è tanto l'articolo 18 in sé o la reintegrazione o il risarcimento, l'indennizzo, il vero problema è sapere che cosa succede, cioè le imprese hanno bisogno di certezza, hanno bisogno di poter programmare i loro conti, i loro investimenti e sapere che cosa succede se decidono di ridurre la manodopera, per esempio per ragioni economiche. Diciamoci la verità, il grosso dei problemi in realtà poi sta nei licenziamenti collettivi, quindi non è sul licenziamento individuale del singolo che si gioca il futuro di un'impresa. Ora, da quello che appunto si dice oggi, è incerto se il giudice abbia nei licenziamenti economici la possibilità di valutare il merito oppure tutto ciò sia escluso dalla prevista riforma e il giudice in sostanza abbia soltanto un ruolo di notaio rispetto a una procedura che deve essere evidentemente correttamente svolta. Io penso che la soluzione giusta sarebbe la seconda, cioè la seconda con una mediazione però importante, e cioè estendere sostanzialmente anche ai licenziamenti individuali per ragioni economiche la stessa disciplina dei licenziamenti collettivi, magari alleggerendo la burocratizzazione delle procedure di informazione e consultazione, non nella sostanza ma nella forma. Oggi noi abbiamo una serie di comunicazioni, di tempi tecnici che obiettivamente aggravano inutilmente, devo dire, le procedure di licenziamento collettivo. Andiamo alla sostanza, andiamo a vedere, a mettere un controllo sulla correttezza delle procedure. Se questa procedura è stata seguita correttamente, a quel punto non si fanno distinzioni, cioè chiunque subisce un licenziamento per cause che non sono connesse al suo comportamento, quindi per ragioni che sono sostanzialmente dell'impresa, ha diritto a un indennizzo che naturalmente poi bisognerà determinare nell'ammontare, perché poi questo è una questione sempre decisiva. Noi facciamo tante questioni di principio sul diritto all'indennizzo, alla reintegrazione, ma tutti noi sappiamo benissimo che un buon indennizzo è meglio di una cattiva reintegrazione. Quindi cosa succede? Cioè, il punto nevralgico è questo: vogliamo un sistema con più certezza o con meno incertezza, perché si sposta l'asse della valutazione tutta sul giudice e che quindi ancora di più aumenta quella diffidenza degli investitori stranieri, ma anche, devo dire, italiani, a creare nuova impresa. Non solo, ma questo problema della incertezza relativa al giudizio sembra estendersi anche al licenziamento per ragioni disciplinari, cioè per colpa del lavoratore. Qui rilevo che l'idea che circola a proposito del cosiddetto modello tedesco. Ecco, in realtà andrebbe molto bene se fossimo in Germania. Cioè avessimo gli stessi magistrati, insomma. Esatto, gli stessi magistrati e anche lo stesso sistema proprio tedesco. Diciamoci la verità, in Germania nelle imprese tedesche ci sono nei consigli di sorveglianza i rappresentanti dei lavoratori, e l'imprenditore quando licenzia in realtà come dopo aver già in qualche esperito, modo, esatto, ha già avuto un prefiltro sulla legittimità del licenziamento. Quindi a quel punto, in buona sostanza, ha già un via libera al licenziamento. Dunque, nella stragrande maggioranza dei casi, perché questo va detto, in Germania il giudice non riconosce il diritto alla reintegrazione, cioè sono casi sostanzialmente eccezionali. Qui stiamo parlando del disciplinare? Stiamo parlando del disciplinare, perché? Perché la ragione della filosofia del modello tedesco sta nel fatto che comunque deve prevalere l'armonia e il buon ordine dell'organizzazione d'azienda. Quindi io, se ti rimetto dentro, dopo che evidentemente si è creato un, noi oggi diremo, vulnus fra datore di lavoro e lavoratore, creo un turbamento all'equilibrio organizzativo e funzionale dell'azienda che non ha senso se questo può essere compensato da un indennizzo. Ora io mi domando, pensiamo che l'atteggiamento dei nostri giudici sarà identico a quello dei giudici tedeschi? Giusta domanda, io la devo interrompere e ringraziare il professor Del Conte. Quindi, come vedete, insomma, le questioni sono complicate su come davvero si dà la risposta alla flessibilità in uscita. Grazie al professor Del Conte. Adesso ci sono le informazioni sulla strada e subito dopo il segretario della CISL. Buon anno. Allora, mentre ripartono i Doors, naturalmente è caduta la linea con Bonanni esattamente mentre noi stavo da per dargli la parola. Abbiamo visto, ripeto, i problemi posti da Rete Impresa Italia per l'aumento dei contributi a loro richiesto per il finanziamento della nuova indennità di disoccupazione che sostituirebbe il regime del cassa in deroga attuale. Abbiamo visto il problema del particolare ancora da risolvere della questione della disciplina in uscita ex articolo 18 dei licenziamenti economici soggettivi e di quelli disciplinari, in cui resterebbe la facoltà al giudice del reintegro ma con un criterio prevalente di indennizzo tra l'altro contenuto al massimo di 24 mensilità, quindi se passano troppi anni nel processo non diventerebbe chissà che cosa. Ma la domanda è al sindacato, Raffaele Bonanni, è chiaduta di nuovo la linea, ragazzi? Vabbè, allora qui non si riesce proprio, perché io ci provo in questo momento a chiederglielo, siccome Raffaele Bonanni è stato fin dall'inizio che, da parte del sindacato, quello che diceva il governo: o ci dai retta oppure le cose non vanno. Le cose stanno come sembrano dire i giornali, è già tutto chiuso? Oppure, Raffaele, quali sono i punti aperti dal punto di vista della CISL e del sindacato riformista secondo te ancora oggi per questa trattativa? Può davvero chiudere al 23? Che ci dici? Ma mi pare che l'altra mattina ci sia stata una sterzata positiva, perché si sono schiarite molte questioni che sembravano ingarbugliarsi. Intanto la volontà di tutti i soggetti di levarci di dosso questa storia interminabile dell'articolo 18, alcuni che ritengono che questa storia addirittura può provocare un disastro sociale qualora si facesse solo manutenzione, e altri che ritengono che addirittura abolirlo significa avere milioni di assunzioni. Ambedue le posizioni sono davvero davvero stucchevoli, e sta prevalendo l'opinione che la ristrutturazione si può fare, tra l'altro è conveniente per lavoratori e imprese. Penso per esempio al fatto di accelerare i tempi. Se si accelerano i tempi, si usa, come si dice, il criterio tedesco, il giudice decide rapidamente con tempi contingentati, come succede già, è un termine tecnico per l'articolo 28 già in vigore in Italia, e lo fa addirittura valutando se un caso grave il reintegro, se un caso meno grave l'indennizzo equo. Mi pare la soluzione più ragionevole. Con una fava si prendono due piccioni. E va dato atto a Bonanni, che è stato il primo a dire manutenzione in questo genere, proprio a confezionare la proposta di questo tipo. Sì. Poi, se le vicende economiche vengono gestite individualmente, diversamente, credo che si fa un favore a tutti, anche al lavoratore, che a quel punto può usufruire della mobilità, cosa che oggi non può fare quando si mette appunto in questo tunnel giudiziario che non finisce mai. Tra l'altro, il lavoratore può adire lo stesso le vie giudiziarie qualora non si sente soddisfatto, quindi mi pare che in questo modo si possa ristrutturare. Mi pare che questa Ma sul notte... complesso degli strumenti di integrazione nuova e sui tempi di entrata in vigore rispetto al regime attuale di cassa ordinaria straordinaria in deroga, che dici? Qual è la tua impressione? Il ministro ha assicurato che ci prenderemo un tempo congruo, questo non per ritardare le modifiche delle situazioni, ma perché è un po' difficile cambiare le ruote mentre il carro cammina in un terreno così accidentato come una crisi terribile che noi stiamo affrontando. Cioè, noi dobbiamo garantire certezza alle persone, cambiare le cose, migliorarle, renderle più efficienti, ma non possiamo scherzare col fuoco. Quindi il governo ci ha assicurato un periodo congruo di transizione per arrivare a che cosa, però? A un sistema di ammortizzazione finanziato da un sistema assicurativo. Significa, pari alle pensioni, che io pago l'assicurazione, ricevo la prestazione quando sono in difficoltà. Ma per fare questo abbiamo detto al ministro, e noi va bene, va benissimo così, ma abbiamo detto al ministro che fare questo bisogna e farlo universalistico, come dice il governo giustamente, bisogna togliere di mezzo alcune flessibilità, io dico malate, pur di tenere le flessibilità buone, che ognuno ha tollerato, anche nello scontro ideologico che c'è stato nell'ultimo decennio, e alcuni insistendo che le flessibilità malate venivano dalla Biagi, non vero, ha tollerato per esempio le flessibilità davvero malatissime. E secondo te, da questo punto di vista, le misure che propone la Fornero per il giro di vite sulla cattiva flessibilità sono secondo te sufficienti e positive? Ma se si mette un freno alle partite IVA, alla società in partecipazione, alle Cocopro e anche alle ditte individuali che molte bene. Volte nascondono, certo. Questo che succede? Non solo fa giustizia e togliamo la gente, i giovani soprattutto, dai guai, ma portandoli nell'area, come fece Biagi per le Cococò, nell'area della dipendenza, costoro verseranno i contributi. Ti devo fermare perché finisce il tempo. Io mi auguro che tutto si chiuda, ma problemi aperti ne parleremo ancora. A lunedì. Radio 24. La passione si sente. Mm.